con l'attore Gianmarco Saurino in scena nello spettacolo Condannato a morte, l'inchiesta di Davide Sacco da Victor Hugo a Roma, all'Off-Off Theater dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019. Gianmarco, ben trovato. Ben trovato, buonasera, buonasera a tutti. Ci racconti brevemente la storia? Allora, guarda, la storia è tratta, questo testo è un riadattamento di un grande classico di Victor Hugo, che è L'ultimo giorno di un condannato a morte, che lui ha scritto a 26 anni, che è l'età nella quale io lo metto in scena, adesso ho 26 anni. Questo testo racconta la storia di un condannato a morte nell'arco temporale che va dalla sentenza alla condanna, all'esecuzione effettiva. E noi ci concentriamo, Hugo in particolar modo si concentra sulle ultime 6 ore della vita di questo condannato a morte. All'interno dello spettacolo e all'interno di tutta la storia, questo personaggio, che è allo stesso tempo narratore e condannato a morte, incontra diversi personaggi, tra le guardie, colui che guida la carrozza e lo porta al patibolo, insomma una serie di personaggi che rappresentano diverse sfaccettature dell'animo umano. Ognuno di loro segnerà una grave coltellata, le ultime coltellate nel cuore del condannato, che lo porteranno poi alla morte, fino all'ultimo incontro, che è quello con sua figlia di 3 anni, che lui non vede da un anno e che non lo riconoscerà. Tutti questi personaggi non fanno altro che segnare la fine, perché l'ultima battuta dello spettacolo è: l'ultima fibra del mio cuore sarà spezzata, io sono buono solo per ciò che mi faranno, perché a colui che sa già che morirà in un tempo esatto, non gli rimane più niente. Sì. Gianmarco, come sei entrato nel progetto? Allora, guarda, io e Davide Sacco siamo che è il regista e colui che ha curato il riadattamento dello spettacolo. Abbiamo già lavorato insieme su un altro riadattamento che è tratto da un classico di Melville, che è Moby Dick, nel quale io facevo Ismaele, e ci siamo conosciuti su Moby Dick, insomma, lavorando a questo Moby Dick. Poi lui mi ha proposto questo spettacolo, del quale lui aveva già fatto una versione più punk, come dice lui. E quando me l'ha proposto, in realtà all'inizio doveva essere semplicemente un reading, ma poi ci siamo talmente tanto affezionati al progetto e ci ha preso talmente tanto che abbiamo detto: mettiamolo in scena. Avevamo soltanto 15 giorni, ci siamo chiusi e abbiamo cercato di fare il miglior lavoro possibile. Poi lo spettacolo ha fatto una piccola tournée, adesso torna a Roma per poi volare verso altri lidi. Diciamo che l'unico modo per entrare in un testo del genere è abbandonarsi e dare massima fiducia a colui che ha scritto il testo, che è Victor Hugo, e che ha scritto un capolavoro, almeno secondo me, perché è un testo che, nonostante è stato scritto poco più di 120 anni fa, è un testo attualissimo. È un testo attualissimo perché parla di sentimenti umani e non fa altro che cercare di sviluppare all'interno di chi ascolta lo spettacolo, chi leggeva il testo, nel caso di Hugo, o nel caso nostro, di chi vede lo spettacolo, quella famosa empatia che in questo momento storico non è mai stata più necessaria, cioè la capacità di riuscire a mettersi nei panni degli altri. La condanna a morte è un tema che c'è talmente distante a noi italiani, che potrebbe essere una cosa che potrebbe non interessare il pubblico, no? Questa è la grande domanda che ci poniamo io e Davide. Ma in realtà poi, concentrandoci su questo racconto semplice, concentrandoci sul fatto che io racconto una cosa e c'è qualcuno che la ascolta, quello che c'è in mezzo, questa meravigliosa empatia, è il più grande risultato che siamo riusciti a ottenere. La gente riesce a mettersi nei panni di quest'uomo, nonostante una storia così lontana. Com'è stato il lavoro di adattamento di Davide? Guarda, il lavoro di riadattamento di Davide, al di là di alcuni tagli all'interno del libro, perché ovviamente non potevamo per ovvi motivi fare tutto il testo, lui ha cercato di dare un di concentrarsi molto su quei personaggi di cui ti dicevo prima, perché al di là della narrazione pura, perché ci sono tante parti molto descrittive, noi abbiamo mantenuto delle parti molto descrittive, perché questo non doveva essere semplicemente un monologo teatrale, questo doveva essere un riadattamento non troppo distante dall'idea del libro di Hugo. Quindi noi abbiamo delle grandi parti descrittive, delle lunghe parti descrittive, che abbiamo cercato di rendere recitate allo stesso tempo quanto i discorsi diretti. Quindi il più grande lavoro che abbiamo fatto è stato quello anche di interpretare le parti descrittive. E il riadattamento ha mirato sul taglio dei personaggi, cioè sul dare a tutti questi vari personaggi che io metto in scena da solo un taglio preciso, una caratteristica, una chiave, quasi portandoli ad una esasperazione da cartone animato, un po' animalesca, perché è come se questo fosse tutto un grande sogno, no? È talmente assurdo che a un certo punto, prima di andare a morire, il condannato incontri qualcuno che gli chiede i numeri del lotto, no? E gli chiede i numeri estratti al lotto, perché si dice che chi viene ghigliottinato può prevedere i numeri estratti. È una roba assurda, ma Hugo, nella sua ironia, riesce a ad essere tagliente. Ed è proprio questo il taglio che ha voluto dare Davide, il tagliente taglio. C'è un patrocinio importante di Amnesty International Italia. Sì, perché a differenza di quello che si pensa in genere, la condanna a morte è un tema attualissimo. Se si pensa che stati come gli Stati Uniti, che sono l'immagine dell'Occidente, degli stati sviluppati, o il Giappone, dove l'anno scorso sono stati 40 condannati a morte, o tutti i paesi del Medio Oriente, se penso alle carceri libiche, probabilmente non parliamo di condanna a morte, ma parliamo di vere e proprie sentenze, senza alcun processo. Insomma, la condanna a morte è un tema assolutamente attuale, che pensiamo di aver debellato, ma in realtà è ancora qualcosa di cui si parla tutti i giorni. I dati lo dicono chiaramente, sono 41.000 i condannati a morte dal 2000 al 2016, se si pensa a 4.117 soltanto tra il 2015 e il 2016, senza contare i dati che non vengono tirati fuori dalla Cina, che non rende pubblici i dati riguardo alla condanna a morte. Insomma, è un tema caldo, è qualcosa di cui si può ancora parlare. E allora ricordiamo lo spettacolo Condannato a morte, l'inchiesta di Davide Sacco da Victor Hugo con l'attore Gianmarco Saurino in scena a Roma, all'Off-Off Theater dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019. Gianmarco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie mille a voi, buona serata, buon lavoro.